turisti, fai da te! No, ambidur! Ai, ai, ai, ai! L'esperienza insegna. Scegli Alpitour. Carlo, sbrigati! Buonasera. Ci risiamo. Abitudine di mandare le patatine durante la sigla, quindi ritardo. Ecco, brava. Ecco. Però siamo sempre onestissime su quello che accade in regia. Certo, bisogna esserlo, se no, nel senso. Ne va della nostra reputazione. Certo. E della nostra integrità intellettuale. Anche perché noi siamo la brusca, non siamo la crusca. Infatti. Quindi loro non lo ammetteranno mai, ma invece noi sì. Ecco, bene. Allora, che dire? Terza puntata, seconda stagione. È un pochino che non ricordiamo i contatti, così tanto per rompere il ghiaccio. Per rompere le acque. Per rompere le acque, come disse qualcuno, ma così... Allora, abbiamo il nostro sito, che ovviamente conoscerete perché ci state ascoltando da lì, che è wombat.nonvlogs.org, Twitter, quindi twitter.com/radiowombatfi, Facebook, facebook.com/radiowombatfirenze, e poi la nostra doratissima mail con un nome meraviglioso che è postawombat@insiberia.net. Così, per rompere il ghiaccio. Ecco, ma... di cosa vogliamo parlare quest'oggi? Oggi si inaugura anche una consuetudine che si ripeterà una volta al mese come un rito sotto la luna, che è quella di portare come tema del giorno la parola del mese. La parola le parole del mese, esatto. Perché poi chiaramente una parola tira l'altra. Esatto, per cui abbiamo la parola del mese, che in realtà questa è la parola del decennio, del trentennio. La parola dell'agenda politica di questi ultimi anni, praticamente. Di queste ultime, boh, tipo 68 legislature, sì. Tipo, perché... E tutti i suoi derivati / termini conseguenziali che magari non sono derivati. Ecco, brava, mi è piaciuta questa. Ti vedo in forma. Conseguenziale. Tipo 86 comunicati stampa scritti oggi, per cui basta. Ok. Adesso ci si rilassa, si fa la trasmissione. Relax yourself. Bene, quindi iniziamo questa rubrica e la parola che vogliamo trattare oggi è letta a Miss Parola del Mese, Miss asterisco ovviamente. Okay. Parola del Mese è... Dai, dillo tu, ti tocca. È la parola emigrato, uh-huh. O migrante, uh-huh. O emigrato, o immigrato. E poi piomberemo in un coacervo di cose veramente atroci. Atroci. Eh sì, oggi puntatona, oggi, ci odierete. Sì, però possiamo dirlo, siamo un pochino più leggeri rispetto alle due puntate di filologia che vi siete dovuti cuccare. E leggiadre. E leggiadre. Oserei dire, sì, infatti. Eh sì, noi ci guardiamo intensamente negli occhi, esatto. Per comunicare chi inizia a parlare. I miei occhi sono più forti dei suoi, dicono inizia tu. Io, perché io mi sono distratta a guardare il sacchetto di patatine. Sono peggio del mio gatto. Sono troppo veloce. Allora, iniziamo dicendo che tutto nasce dal termine emigrare, ok? Partiamo dal verbo. Prima coniugazione, finisce in are, lo sanno anche i bambini, ed è un verbo che deriva dal latino, emigrare, semplicemente, formato ovviamente da un prefisso privativo, quasi, e una combinazione con migrare, ed è sinonimo, ad esempio, di altre parole come espatriare, e ha dei termini correlati, derivati, che sono emigrante, emigrato ed emigrazione. Quindi su, diciamo, un quadro semiotico potremmo fare la nostra bella crocettina, mettere questa parola emigrare al centro e unire e mettere ai vertici i ramettini. Esatto, tutte le altre derivanti, ecco. È un verbo che regge l'ausiliare essere o avere e addirittura è attestato già nel XVII secolo, fine 600. E c'è un vocabolario, non ricordo quale, ma ho visto proprio oggi questa dicitura: emigrare, partirsi dalla patria. Ed è appunto la prima definizione che... Quindi abbiamo questo termine proprio così intenso, che è patria, che ha molto a che fare... Mi puzza un po' di devoto, eh? Devoto, esatto. Di devotini. No, devoto Oli, queste cose non le fa. No. Però è molto... Parlo proprio di un vocabolario, penso, della metà del Settecento. E quindi... Devoto non c'era ancora, ma almeno forse c'era, ma non lo so. Indagheremo. Vedremo. E quindi qual è il significato di emigrare? Banalmente, lasciare il proprio luogo o stato d'origine per trasferirsi altrove, provvisoriamente, in maniera definitiva, al fine di cercare condizioni di vita differenti, se non addirittura migliori. Però c'è un'altra cosa anche. Viene detto in maniera poco comune anche degli uccelli e di altri animali che si spostano da una regione all'altra al mutare delle stagioni, finestra, ecco, alla ricerca dell'ambiente ideale. Più comune è la dicitura migrare, come Esuli Pensieri nel Vespero Migrar diceva il sommo. Dico il sommo perché ora non mi ricordo chi l'ha detto. Ok. Quindi, cosa possiamo dire? Qual è il fulcro di questa beccata? Nenia non parla perché ha una patatina e si sta mangiando le patatine. Allora, emigrato, immigrato, sono non termini contrapposti, indicano semplicemente uno spostamento da dentro a fuori e viceversa. Il contrario dello spostamento che si effettua. Esatto. Emigrato e immigrato però presuppongono da un punto di vista del significante, quasi, ma proprio anche dal punto di vista dell'uso giornalistico, comunicativo che si fa della parola, si presuppone su un termine di cui non viene fatta nessuna analisi del mezzo di spostamento, dei tempi, delle condizioni di viaggio, a differenza della parola che andremo a introdurre tra pochino, che è migrante. Ma prima io farei un pezzettino. Sentire un pezzettino. Sì, prendiamo fiato, beviamo un sorso di birra. Il quiz è... E facciamo l'aperitivo tutti assieme. La avevano di cartone. L'avevano di cartone, signora. Dove vai con quella valigia di cartone? Ecco. La valigia sul letto è quella di un lungo viaggio. E tu senza dir niente hai trovato il coraggio. Con l'orgoglio ferito di chi poi si ribella, ma quando t'arrabbi sei ancora più bella. E così su due piedi io sarei liquidata. Ma vittima sai tu bilancio sbagliato. E un uomo tradisce a metà, per cinque minuti e non eri più qua. Se mi lasci non vale, se mi lasci non vale, se mi lasci non vale, non ti sembra un po' caro? il prezzo che adesso io sto per pagare. Se mi lasci non vale, se mi lasci non vale, se mi lasci non vale, se mi lasci non vale, dentro quella valigia tutto il nostro passato. Metti a posto ogni cosa e parliamone un po'. Io di errori ne ho fatti, di colpe ne ho. Ma quello che conta tra il dire e il fare è saper andare via, ma saper ritornare. Se mi lasci non vale, se mi lasci non vale. Non ti sembra un po' caro il prezzo che adesso io sto per pagare? Se mi lasci non vale, se mi lasci non vale, dentro quella valigia sotto il nostro passato. Radio Wombat e soprattutto l'Accademia della Brusca a volte scadono nella sagra del macismo più trucido, proprio perché quando ti arrabbi sei ancora più bella, proprio caro Julio, schiaffoni nella ghigna, come direbbero dalle mie parti, schiaffoni nella ghigna tutto il tempo. Eppure il caro Julio ha fatto girare la testa a mamme e nonne, per cui magra consolenza un pochino. Che si diceva prima di Julio che è un, in questo caso è stato, per aver cantato questa canzone in Italia, effettivamente un emigrato in Italia, seppur temporaneo, per cui anche lui è stato da questa parte, no? Dicevamo emigrato, contrapposizione, non c'è nessuna analisi del contesto e delle condizioni di viaggio, del mezzo, dei tempi. A differenza di questa parola che stiamo appunto sentendo ormai da, penso, 2013, quando l'ha introdotta il ministro Chieng quasi, e poi spinta molto dal caro smacchiatore di giaguari, Bersani. Proprio lui. Smacchiatore di giaguari. Che è migrante. È un termine strano. È un participio presente, non un gerundio, che si è ritrovato spesso accompagnato poi da epiteti burocratici, giuslavoristici, come extracomunitario, per esempio, che pur avendo di suo proprio, è una parola composta, no? Che ha un significato totalmente neutro. Per dirci, anche un canadese, no? È un extracomunitario. Diventa... Anche uno svizzero che vietava l'ingresso agli italiani nei pub, nei bar, negli alimentari. È un extracomunitario, semplicemente una persona che proviene da paesi che stanno al di fuori della comunità europea. E diventa migrante, accompagnato da questi epiteti, dispregiativo, ghettizzante, una condizione di inferiorità autentica per quanto riguarda la provenienza, le condizioni di vita, la povertà e non solo. Quindi oggi, per esempio, il termine migrante si attesta anche, che ne so, le condizioni di salute portano malattie, è proprio un termine che si differenzia dall'emigrato. Non solo, però, il migrante dal punto di vista politico si rifà a quel buonismo, giusto Nenia? Sì, è quello lì. Che generalmente, noi possiamo raccontarla questa cosa? Cosa abbiamo visto noi la settimana scorsa? Non mi ricordo, sembra passato un anno. Siamo andate in un posto in una festa dell'editoria libertaria a Firenze e abbiamo assistito a uno spettacolo raccapricciante, spettacolo sì. Proprio performance teatrale. Mamma, allucinante. Io l'avevo rimossa completamente. Vedi come i traumi. Allora, il giorno dopo mi sono svegliata con il pezzo di Elio e le storie tese Parco Sempione nel cervello per mi è rimasto almeno 2 giorni. Piantala con sti bonghi era proprio la parola della settimana ormai. Infatti domenica mattina prima di andare a pranzo, chiaro, tu stavi ascoltando quello. No, terrificante. Io poi non apprezzo questo stile, no. Non fatto da adulti, si può fare a scuola, alle scuole medie, però vabbè, comunque hanno fatto qualcosa, massimo rispetto comunque, però è magari proprio... anche no la prossima volta. La trasposizione figurativa di chi si riempie la bocca del termine migrante uguale, poverino. Sì, bonghi e pareo, vabbè, esatto. Lasciamo perdere, dai, perché poi davvero si va... Per cui, insomma. Quindi, facciamo l'analisi del termine, ok? Intanto che migra, migrante, ed è un termine legato soprattutto alle condizioni con le quali, attraverso le quali avviene il viaggio. Il migrante sta migrando, perché qua ci rifacciamo a un errore abbastanza comune, che facciamo in tanti, migrante non è un gerundio, migrante è un participio presente. E... qui avremo anche una cosettina, niente male, da farvi ascoltare a breve, dove la lingua italiana piange lacrime amare di rassegnazione. Migrante è un gerundio, secondo questo politico, e l'Accademia della Crusca potrebbe tranquillamente chiudere i battenti, di conseguenza anche noi. Sì. Caro Matteo, perché di lui stiamo parlando, si parla di participio presente. C'è una registrazione che vi faremo sentire di un programma che si chiama Virus. È veramente in studio cala l'imbarazzo. In studio cala l'imbarazzo, nessuno anche lo anche in regia calerà l'imbarazzo. Noi saremo proprio... E, vi accorgerete, adesso è un frammento molto corto, ma la trasmissione prosegue come nulla fosse. Vado. E vai, falla sentire perché veramente. Anche questo vocabolo nuovo inventato dalla Boldrini qualche anno fa, sono clandestini. No, il migrante è un gerundio. Quando migri sei un migrante. Quando stai qua per 2 anni non sei un migrante, sei un clandestino che campa a scrocco del prossimo. E tu, caro Matteo, sei un coglione, usando le parole della Nenia tre secondi fa. Matteo, sei un coglione. Per forza. Non era stata poi, a proposito, la Lega Nord a chiedere con una grossa insistenza un test di italiano a cui sottoporre gli stranieri per testare la loro conoscenza della lingua? Cioè, come se questi non avessero già abbastanza problemi. Per lui arrivare. Viene da un liceo classico. Sì. Sì, sono sicurissima. Ho ascoltato un sacco di sue interviste. Non è un dentista? Ma non lo so, però so che viene da un liceo classico. Forse il dentista era Calderoli, l'orsetto Teddy. Ve la ricordate quella cosa bellissima di Fabio De Luigi che faceva i bellissimi di Rete 4 presentati da Calderoli? Oddio. Erano meravigliosi. Che bello. E quindi, insomma, anche Salvini, nonostante... ci si collega, no? Si fa un po' un'apertura verso la situazione in realtà dello stato di salute della lingua italiana, soprattutto per chi dovrebbe averne una padronanza perlomeno accettabile. Vediamo insomma che questa conoscenza scarsa dell'italiano avrebbe sicuramente negato loro il permesso di restare in Italia. Ed è stato mocciato Salvini. Poi ovviamente dopo questo episodio su Twitter si è scatenato veramente l'inferno. C'era chi scriveva che Salvini sta riscrivendo la grammatica e quindi se migrante o gerundio ignorante resta comunque un participio. E da lì poi era partita anche tutta la campagna mai con Salvini. Insomma, però non è l'unico... Adesso vi facciamo fare 2 belle risate, non è l'unico a sbagliare, abbiamo qualche altro nome, io spero ci sia anche Razzi in mezzo. Salvini dice che migranti è gerundio. Mi devo andare a ricambiare un'altra volta. Mannaggia Salvini, mannaggia. Andiamo a interrogarli. Voce del Verbo. Ma come rompi coglioni? Ma come ti rompi coglioni? Sì, siete dei rompi coglioni, perché io sto telefonando. Participio presente? No, perché Salvini ha detto che migranti. Ma vada a fanculo lei. Ma come io? Sì, lei. Ma che c'entro io? A me l'esame me l'ha fatto. Ma non mi può mandare a fanculo. Sì, non so neanche chi è, ma chi è? La 7, la 7. Allora, va bene. Prima ma vestito da scemo, abbia pazienza. Vabbè, ma sono l'ultimo giorno di scuola. Ha detto è un gerundio, invece migranti, No, sì, ho capito, ma in italiano migranti è un... Non lo so, io parlo solo romano. Non lo dica, dai, tanto lo scopro, mi fa fare un lavoro in più. Ma come? Ma proprio, ma come? Ci deve andare a fare il culo. L4, guarda, quanti va a fare, quanti mi va a fare quello che mi dice? Vado, a far indicativo io, presente, in e che con displendere, participio passato. Splendido, potrebbe essere. Splendido. Aspetta, masticare. Congiuntivo imperfetto. Masticando. Poi, sai sa tutto, credito. Ma perché non mi manda a fanculo pure a camera? No, poi va bene, loro fanno il loro lavoro. A me, lei, solo a me. Ma... E lei lo stronzo. Sì. Ah, pure stronzo. Participio presente di essere. Questo è facile, onorevole. Ento. Grazie, arrivederci. Ento. Emigrare, gerundio passato. Migrato. Passato migrato. Grazie. Era doppio, ma è stato grandioso. Grazie. Buona giornata a lei. Cicchitto, dica agli italiani che cos'è migrato. Smetta di rompermi le scatole. No, ma io non le sto rompendo. Ma no, Cicchitto, lei è un uomo di spirito. Sì, ma lei è uno spirito di patata. Come di patata? Pure a lei. Pure lo so pure lei che mi piace la patata. Cicchitto. Migranti. Se la metta in bocca. No, Cicchitto, se la metta in bocca. La patata. La patata, sì. Vabbè, ogni tanto lo faccio. Participio passato di soccombere. Soccombendo. Soccombendo, è gerundio, passato, per esempio, migranti è migrato, quindi soccombere, come caschi qua, soccombere è? Soccombere, no, non lo so. Quindi fa soccombere, che è in dolce? È francese, grazie, arrivederci onorevole. Stia bene. Anche lei, stia meglio. Oh. Allora, questa è soccombere, questo è un po' tosto, è passato remoto. Passato remoto e soccombere. È un po' strano però. Venire soccorsi. Soccorsi. Ok, grazie. Passato, grande. Ciao. Davvero? Grande. Grazie. Che? Ciao. Participio passato di secernere. Segreto. Bravo. E passato remoto. Di cosa? Di secernere. Io. Secretato no, perché sarebbe il mio segretario. No, segretato no. Io credo la stessa cosa. Io ho segreto. Sì. Migranti. Partito presente. Lei di che partito è? PD. PD, bravo. Come? Nome? Lavagno. Lavagna? Allora stiamo un tema, oh. Ah, Lavagno. La sapeva perché la sorella, c'ha la sorella qua, capito? Per questa la sapeva, a paraculo. La gallina non è un animale. No, ma noi aspettiamo. Sì, ma lei è un maleducato. No, aspettiamo. Io sono al telefono. Ma non faccio niente. Aspetto qua. Bene? Cicchitto, ci dica, migranti, che cos'è? Migranti, che cos'è? Cicchi? Ce lo dico. Io sono un migrante. E se continuiamo così me ne vado io, segreto, mi emigro. Si depili i polpacci che faccio schifo. Va bene, verrò da lei a farmi la ceretta, onorevole. Se fa la ceretta insieme. Vabbè. Cioè, la pochezza proprio di argomenti su cui attaccare una persona che... Povertà totale. Proprio sì, sta dicendo ok, dimostrami che sei lì dove sei perché un pochino te lo meriti, almeno dal punto di vista linguistico e di competenza parlata di lingua nativa. Nulla. No, il vuoto totale. No, zero, no, io... poi soffro. In realtà le mettiamo per far ridere, ma io poi soffro sempre un pochino. Ma vedrai, perché comunque cioè, non è possibile. Me la sono, me la canto, ma non me la rido. Alla fin fine, ecco. Vabbè, ci penserò un po' su. Via. E quindi passiamo così. Emigrato. In due balletti al latino. Esatto. Per forza, emigrato, emigrare, migrante, ius soli, ius sola. Ius sola, sì. Iniziamo a dire anche come è scritto, perché poi riceve delle trasformazioni quasi acrobatiche nella due parole, entrambe scritte con la maiuscola iniziale, ius soli. Come lo leggete, così lo scrivete, ius soli. Il contrario di ius soli, quindi il diciamo ciò che vige ora in Italia, è termine che non sentiamo praticamente mai, è lo ius sanguinis. Il diritto di cittadinanza per chi è nato da italiani, almeno se non sbaglio di seconda o terza generazione. Arrivava la terza, sì. Complimenti. Tipo in Argentina chi ha il nonno... che aveva o che ha il nonno e può dimostrare che era nato in Italia, può ricevere la cittadinanza italiana, nonostante poi non abbia nessun rapporto con l'Italia, potrebbe anche non parlare l'italiano, insomma non ha dei requisiti così stretti come chi invece la deve ricevere nascendo qui. Ma quindi gli eventuali nipoti illegittimi di Indro Montanelli? Loro? Che sono libici, potrebbero avere lo ius soli? No, perché non si tratta nemmeno di ius soli. Rientra in una formula differente, perché lo ius soli comunque si tratta di persone nate in Italia, che comunque non hanno dei genitori italiani. Ecco, quindi vi ho dato una quello del ragazzo, cioè della persona argentina, invece è il contrario, lui è nato in Argentina, vive in Argentina, però non è mai stato in Italia, può ma richiedere. Può richiedere la cittadinanza, è buffo, cioè io sono d'accordo, si dia a tutti, ok, però è buffo che si cerchi veramente di il famoso pelo nell'uovo, sì, su questa legge, che comunque è l'unico argomento che viene trattato nell'agenda politica, per l'appunto, come si diceva prima, ma poi venite, in sostanza venite a dire che gli italiani non sono razzisti, vai. No, poi in sostanza cioè, la gente probabilmente non ha nemmeno capito che tipo di proposta c'è dietro, perché pensano che semplicemente si dia la cittadinanza a chiunque arriva col barcone, magari fosse così, però nel senso non è quello che dice. Vabbè. E quindi, che significa ius soli? Diritto del suolo. Tutto qua, molto semplicemente. È un'espressione in realtà giuridica che è entrata nel quotidiano, nel parlato. E indica proprio l'acquisizione, come diceva la Nani ora, della cittadinanza di un dato paese come conseguenza, in realtà, del fatto, sempre giuridico, di essere nati sul territorio, indipendentemente dalla cittadinanza dei genitori. Io tra l'altro oggi leggevo i requisiti per ottenere la cittadinanza italiana, no? L'inno c'è ancora? Non compare nella lista, nei vari siti del Ministero dell'Interno, però ci sono dei requisiti tipo avere un reddito da 8.500 euro all'anno, avere il passaporto, tutta una serie di requisiti che... Tipo, la metà io, per esempio, già non ci rientro mai. Io il passaporto non ce l'ho. Infatti, anche 8.500 euro l'anno non è scontato che nemmeno un italiano li abbia. Quindi, esatto. Ora si fa così per ridere, per drammatizzare un po'. Stiamo parlando di 700 euro al mese, però, effettivamente, ci sono dei requisiti allucinanti, per non parlare poi del quantitativo di anni che devi dimostrare di essere stato qui lavoratore. E... 20 se sei extra comunità europea, 5, insomma, sei comunitario. Si arriva a tantissimi anni, voglio dire, uno, cioè, è molto difficile. È abbastanza improbabile. Però, sì, poi alla fine quello che cambierebbe questa legge sono semplicemente questi bambini che sono spesso più italiani degli italiani stessi, che non si vedono riconosciuta una cittadinanza da nessuna parte, perché magari sono cittadini di un paese che non li ha mai visti, di un paese in cui si parla una lingua che spesso loro non conoscono, quindi insomma si parla di questo. Sì. Potrebbero essere apolidi praticamente. Praticamente. Perché, Poi io non entro nello specifico perché è veramente un territorio che davvero non so navigare, però così con due balletti mi vengono in mente queste riflessioni. Poi magari se qualcuno invece ha più esperienza e più scafato e navigato ci aiuti, sapere. Magari ci scriva delle mail postawombat@siberia.net proprio per darci anche due dritte, magari qualche correzione ben venga. Volentierissimo. Che si fa? Vogliamo, a questo punto mettiamo un altro a proposito di bambini, un pezzettino ragazzi di migrazione, questo vi spaccherà il cuore. Piccolo pulcino del mio cuore, quanto sei bello, come sei cresciuto. Senza di te io non potrei campare, piccolo mio, per questo son tornato. Ho letto la tua cara letterina, il tuo papà vuol bene la mammina. Da oggi non esiste più il passato, il sol nel cielo azzurro è ritornato. E stringiti al mio cuore, pupo biondo, io quando abbraccio te abbraccio il mondo. Io e la mamma, vedi, non piangiamo, e forte forte a noi ti stringiamo. Nessuno ci potrà più separare, o piccolo pulcino del mio cuore. Torno pupo biondo, la casa non sarà più triste e buia. Io quando abbraccio te abbraccio il mondo. La mamma che ha sofferto tante pene, ancora più di prima ti vuol bene. Ritorna a casa caro paparino, ritorno pupo biondo. Nessuno ci potrà più separare, o piccolo pulcino del mio cuore. Ma senti che pezzettino che t'ho messo. Non era il papocchio, vero? Non era. Ma ci stava tutto. Cioè, anche quella di Totò. Ho scritto una lettera al babbo. E anche non correre papà, non correre papà. Oddio che bello. La mamma è morta già sull'autostrada. Questa va messa, prima o poi vi tocca anche questa. Ebbene, che imbarazzo. E anche oggi abbiamo messo la nostra grammerolata. Bravissima. Che dire, che si parlava dello Ius Soli. Che sì, strano, sì, ma vero. Parlavamo proprio di lui. Sì. Infatti questo pezzo, tipo quasi tutti i paesi del continente americano applicano lo Ius Soli in modo automatico. Quasi tutti gli Stati Uniti, il Canada, quasi tutta l'America Latina. Alcuni paesi come la Francia, la Germania, l'Irlanda e il Regno Unito concedono invece la cittadinanza sempre per ius soli, ma condizionata. E l'avevamo detto... Dica. No, no, no, non sapevo dell'America Latina. Pure loro, sì sì, forse bravi. Per quello che è. Il contrario di ius soli, lo dicevamo prima, è lo ius sanguinis. Entrambi i termini provengono appunto dal latino. Perché? Perché nella società latina lo ius indicava un diritto in generale, dal quale poi discendevano derivati di iustum, giustizia, ius, come se fosse la radice quasi della parola. Il diritto di cittadinanza, che un individuo acquisisce solo per il fatto di essere nato sul suolo di un determinato paese, viene detto soli, solo, suolo. Per cui, dove metti piede, quella è casa tua e lì sarai cittadino. Che dire, che in realtà noi abbiamo detto ius sola, ma c'è un giornalista, tale Marcello Veneziani, che l'ha detto, forse l'ha detto prima di noi, ius sola. L'ha sparata anche esatto. Lui, sì. E, in realtà lo ius soli è un termine che in Italia è stato sdoganato, anche questo è una bella parola, bel neologismo, sdoganare proprio. Segnare prossima puntata. Esatto. Praticamente che stavo dicendo? Ah, che praticamente lo ius soli è una parola arrivata o perlomeno diventata di uso molto comune dal 2013. Però esiste dagli anni 70 e sono state prime ad utilizzarla che sono stati le autorità sanitarie inglesi, perché di fronte a un numero di puerpere pakistane, indiane, quindi dei paesi da loro colonizzati, che arrivavano appunto nei loro attrezzatissimi ospedali con la diagnosi di gravidanza difficile o parto a rischio, e da qui appunto viene applicato lo ius soli a tutti questi bambini che appunto figli degli ex udditi di Sua Maestà Britannica mandavano poi le mogli a partorire in Inghilterra per far sì che i loro figli nascessero sul suolo inglese. Quindi oltre alla cittadinanza del paese di origine acquisivano anche la cittadinanza inglese, perché la legge britannica di quegli anni lo consentiva. Nulla, tutto qua. Il riconoscimento della cittadinanza in base alle leggi attuali italiane, quelle che appunto più o meno ci aveva elencato prima Nenia, risale al 5 febbraio 1992. E invece i fautori dello ius soli sono differenti, nel senso che fino al 2013, come si diceva prima, nessuno utilizzava questo termine. Anche in America e in Canada, appunto, c'era questo sparuto drappello di nazioni, 30 su 200, che utilizzano questo diritto giuridico proprio di dare la cittadinanza. Quasi appunto, mi viene da dire onoraria, ma non è, però nel senso, ci siamo ben capiti. Al momento, noi in Italia proprio non se ne parla, ne parleremo ancora tra un pochino, ma per il momento, come vedete appunto, sì, La vedo grigia e buia. Esatto, anche sì... Non c'è stato poi il manipolo proprio grandi, come dire, dell'opinione comune, che malinformata o disinformata ovviamente si scaglia contro lo ius soli. Sì, ma poi se anche dovesse passare, passerà con tanti se, ma, però... Come la legalizzazione della cannabis, come un sacco di altre cose. Vedi anche la legge in Arabia Saudita che ora consente alle donne di guidare, ma con un tutore. Con un tutore accanto, che chiaramente deve essere un uomo. Utilissimo, rendi utilissimo. Conto. Vabbè, infatti sono tutti contentissimi. L'unico paese con cui interagiamo finalmente ha ottenuto questa grande... Vabbè, ma cioè, bravi ragazzi, vi meritate 100 anni di lettera del bimbo al babbo immigrato a ripetizione, girone infernale, sì, ok? Sì, sì. Ecco. Io ne avrei anche un'altra simile, ma non so se ve la faccio sentire subito, perché è un po' tardino e quindi devo iniziare sono a scartare. In realtà, guarda, come argomentazioni... Però ti vorrei far sentire un pezzo interessante sui luoghi comuni degli immigrati. A dopo. Vabbè, allora facciamolo partire. Allora ragazzi, a Genova martedì c'è stata la nazionale Italia-Albania, un'amichevole organizzata per devolvere parte degli incassi agli alluvionati di Genova. Bellissimo! Non vi dico la gara di solidarietà tra i genovesi. Bolin, che spettacolo! Mi ha commosso, ve lo giuro, sinceramente, non me l'aspettavo. Sai, a volte si dice che i genovesi sono tirchi, no? Balle, c'erano 26.000 spettatori, 26.000! Cosa devo dire io? Grazie Genova, grazie. Marassi, provincia di Tirana, sono oltre 23.000 i tifosi albanesi. Scusate, ritiro. Grazie Tirana. Allora, su 26.000 spettatori, 23.000 erano albanesi, degli altri 2.000 erano magi e 999 erano addetti. Cioè di genovesi paganti allo stadio ce n'era solo uno, che però era lì perché pensava ci fosse la Samp, e infatti ha chiesto il rimborso. Cioè praticamente ci sono gli albanesi che ci stanno aiutando a casa nostra, lo capite che questa cosa è agghiacciante? È agghiacciante quello che aiutano. Io casco dalle nubi. Signori miei, lo stadio era pieno di Antoni albanesi. Paura! È stato uno schiaffo al molare, vero e proprio. Sono sbarcati qui a Genova migliaia, la città che ha dato i natali al tenente Colombo, quella che aveva scoperto l'America con le tre caravelle, la Pina, la Tinta e la Tata Lucia. Vergogna! Scusate! Scusate, ma questi immigrati che vengono a Genova a rubarci anche la solidarietà, guarda che bello. Ma come si permettono? Ma cosa si credono questi neri, gialli, indiani, zingari? Cosa si credono? Vengono tutti in Italia, li manteniamo con i nostri soldi, ci rubano il lavoro e tra l'altro non rispettano nemmeno le nostre leggi. Bella, eh? Vi è piaciuta questa infilata fottutissima di luoghi comuni sugli immigrati in Italia? Peccato che siano tutti infondati. Lo vogliamo analizzare un po' uno per uno? Vorrei presentarvi la top 4 dei luoghi comuni sugli immigrati. Prego maestro, via. Al numero 4, gli immigrati vengono tutti in Italia. Non è vero, non è vero. Secondo l'Istat, gli immigrati in Italia sono sempre meno che in Inghilterra, meno che in Germania, meno che in Spagna. Ci snobbano anche loro. Se possono, si fermano qui il tempo per dare un'occhiata all'orario dei treni e poi ripartono. Quelli che restano è perché i treni in Italia sono in ritardo. Al numero 3, gli immigrati li manteniamo con i nostri soldi. Non è vero, non è vero. Vero, anzi ci mantengono loro. Secondo gli studi della Caritas, producono l'11% del nostro PIL. Per dire, oggi un italiano su tre è a casa e prende la pensione. Ecco, se non ci fossero i 9 miliardi di contributi che gli immigrati versano all'INPS, un italiano su tre sarebbe solo a casa. Punto. Niente più pensione. Vivrebbe di gratta e vinci. Al numero 2... gli immigrati ci rubano il lavoro. Non è vero, non è Vero, e non lo dice il lavavetri al semaforo, lo dice la Banca d'Italia. Io mi fiderei tendenzialmente più del lavavetri al semaforo. Però la Banca d'Italia è stata chiara, la crescita degli stranieri non si riflette in minori opportunità lavorative per gli italiani. E infine al numero uno, gli immigrati non rispettano le leggi. Lo dico io o lo dite voi? Perché secondo l'Istat il numero dei reati negli ultimi 20 anni in Italia non è aumentato nonostante l'immigrazione sia cresciuta. Eppure, nonostante tutti questi luoghi comuni sui migranti siano palesemente falsi, c'è qualcuno che riesce addirittura a costruirci una fortuna politica. Allora, se in un comizio di Salvini togli tutti sti cazzo di luoghi comuni, cosa rimangono? I tombini di Ghisa. Domenica si vota in Emilia Romagna e lui è in giro per i comizi, no? Comizi, concerti. Sentite qua che voce, ormai è pronto per Italia's Not Talent. Guardatelo un po'. Salvini, tu sei la stella. Salvini, tu sei l'amore. Arriva la Romagna. Vorrei tornare dalla mia bella al casolare. Vabbè. Arriva la Romagna. Mani sulle mani da mia moglie. Mamma mia. Vabbè, scusate il pippone, però ci stava. Un piccolo riassuntino, si era Crozza. Un piccolo riassuntino sui luoghi comuni, boh, male ogni tanto non fa. E che dire? Passiamo a questa piccola parentesi. Che ci porta dallo Ius Soli a Chiang e Boldrini. Mi sento male. Tutto iniziò nel 2013. Durante la campagna elettorale, si diceva prima, Pierluigi Bersani aveva promesso che il primo provvedimento del suo governo, perché era sicurissimo di stravincere le elezioni, sarebbe stata la concessione della cittadinanza italiana a tutti i figli degli emigrati nati in Italia, ovviamente i figli, non i genitori. E quindi appare per la prima volta il nome dello Ius Soli. Per applicare questo però bisogna cambiare la legge vigente in materia su tutto quello che è la cittadinanza. Il mio allora ministro per l'integrazione italo-congolese del nuovo governo, Cécile Kyenge, non si è ancora capito la bene. La sentivo, ormai si sente poco pronunciata in entrambi i modi, non ho mai ben capito. Perché dovrebbe essere, a me viene un po' farlo la francese perché si chiama Cécile. Sì, però non so. E, lei, che è stata protagonista di, non trovo la parola, proprio di abomini terribili, di lanci di banane, di cose che veramente ci fanno sentire proprio male. Sottosviluppati. Sì, sì. Cioè un paese di sottosviluppati. Io raccontavo ieri sera con la mia amica Cécile Kyenge, è una chirurga del Policlinico di Modena, che è stata vice sindaco, che è stata che è una studiosa, che è arrivata in Italia per studiare, si è laureata a pieni voti e, essendo una donna comunque giovane, perché penso arrivi a malapena la cinquantina, sì, lei ha già avuto ben 3 carriere differenti. No, ma ti immagini, capito? Lei si vede, si trova in una situazione del genere, ma nemmeno i film, quelli che fanno a Natale, visto Natale di qua, Natale di là, India, sì, queste robe qua. Cioè, nemmeno più in questi film si vede una scena del genere, perché comunque c'è stata questa sorta di, vabbè, facciamo almeno finta di essere politica di corda. Cioè, almeno finta, chiaro. Qui zero, proprio. Natale al cesso, quello di Maccio Capatonda. Sì. E quindi, insomma, il ministro, guai al primo. Grazie. Che dice ministra. Grazie in questa trasmissione. Il ministro. Ti adoro. Poi si farà anche una bella puntatina, esatto, sul genere linguistico. Che mi mi prude la gola. Io lo vorrei registrare tutta con il tipo con il vocoder. Ah, sì. Tutta registrata così. Bellissimo. La puntata con il vocoder, tanto a casa ne ho uno. Quindi insomma il ministro deve essersi ricordato della promessa fatta dal caro smacchiatore di giaguari, dichiarando proprio alla stampa appena diventato ministro il suo essere favorevole, la sua battaglia sulla concessione della cittadinanza ai figli degli immigrati, cosa che è rimasta lì perché il governo Bersani è caduto. Cecil Kyenge si è fratturato. Poi infatti Bersani, sappiamo anche cosa gli è successo dopo. Vicino, oddio, non avevo intenzione di Gargamella. Fare dei riferimenti del genere, era così. E quindi la Kyenge è stata soppiantata dall'italiota medio nella figura di Laura Boldrini. Anche lei, anche lei ne busca dalla mattina alla sera, poraccia, per carità. Lei è stata nell'ONU, nelle Nazioni Unite, è stata, cioè ha un curriculum, ragazzi, della Madonna. E l'ultima cosa che ho sentito, ma perché sono sempre tentata di non documentarmi su questi abomini, è stato quello che di insomma augurarle lo stupro, come è successo alla ragazza polacca stuprata a Rimini. No, ma infatti guarda, visto che le piace, hanno detto questo. Di conseguenza avete paese visto? Paese di sotto sviluppati. Ecco, avete visto c'è altro da dire. Si passa da un etimo alla questione proprio concreta della nostra quotidianità, dei problemi effettivamente che nella nostra società affrontiamo, che non sono più gli stranieri, gli immigrati, tutto quanto, siamo noi, la becera ignoranza. Esatto. E quindi, che dire, basta. E quindi diciamo subito un po' che cosa bolle in pentola questo fine settimana. Esatto, così vi distraete. Sì, sì, sì, sì, ci vuole sempre un po'. Allora, abbiamo stasera proprio tra un pochino, quindi spegnete il computer e correte. C'è al Next Emerson due concerti garage. Salto tutta la lista di nomi, ma va bene. Povero così. Un'autodate, dopo c'è 8 Hertz. Eh sì. E poi invece domani, venerdì 29 settembre, al Camilo Sanfuegos abbiamo Colleferro Metal Punk, tributo agli 883. Poi Tondino Boys di Lucca, che fanno Oi, e una DJ set, Contagio Trash. Mentre al Next Emerson, dalle ore... ma cosa state a fare? Io vado a fare la fila subito, ciao! Peccato che sabato è lavoro, vabbè. Invece al Next Emerson, sempre domani, venerdì 29 settembre, dalle 21, serata breaking. Il collettivo Exchange farà breaking, balli e bella musica. Con open mic. Tutto qui. Ti pare poco? Bene. Chi vuole venire a fare figure di merda, come si suol dire, può andare al Next ballare barra cantare, o se vuoi fare figure di merda sotto cassa al Camillo, cioè hai possibilità di fare figure di merda. Esatto, chi vuole venire in tutti con i modi noi, ovunque, devi solo scegliere. Domani sera a Firenze si inaugurerà la tradizionale serata annuale della figura di merda. Mannaggia, vabbè. E questo è quanto, saluti e baci, l'ultimo pezzo un po' più serio, un bel pezzo, bello, cantato bene da una super diva, e questo concediamoglielo. Antipatica, ma molto brava. Vabbè, però è brava, quindi va bene uguale, si fota l'antipatia. È antipatica. Ma è brava, quindi la tua è tutta invidia, quindi, diciamolo. Buona! Pupi biondi, pulcini del nostro cuore, ci risentiamo giovedì. Ciao ciao. Ciao. Cento lire che in America 100 lire io te le do, ma in America no, no, no. I suoi fratelli alla finestra dicono: mamma, lascia.